La macchina del fango colpisce anche Letizia Moratti. Per sostenere la sua messa in piega lavorano giorno e notte 10 parrucchiere cinesi. Non è un cappello, ma un crine di cavallo uscito dal balzò. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore.